24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 19 minuti e 7 secondi di questo mercoledì 15 luglio inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Avete accennato prima alla questione 5G, che in realtà non tutti noi siamo obbligati a sapere che cosa è, ma siamo abbastanza a conoscenza del fatto che è una grande battaglia tra Stati Uniti e Cina, e in apparenza la Gran Bretagna ha scelto di schierarsi accanto al tradizionale alleato, gli Stati Uniti, perché Boris Johnson ci ha ripensato e ha stabilito che il 5G non sarà ammesso in Gran Bretagna. Ma attenzione, il diavolo si nasconde nei dettagli, perché tutto ciò verrà diventerà realtà solo nel 2027, e già adesso sui quotidiani britannici si è scatenata la battaglia. E per la rubrica Tutto il mondo e paese mi ha veramente divertito il titolo del Guardian. Ora, il Guardian è un quotidiano britannico che viene letto soprattutto dalla borghesia colta che vive nelle città, in aree metropolitane. Eppure il Guardian questa mattina titola preoccupatissimo: se non ci sarà il 5G, a esserne molto colpite saranno le aree rurali. E poi, guardate un po', quando si dice Tutto il mondo e il paese, l'altro titolo interno dice: togliere Huawei dalla Gran Bretagna costerà 7 miliardi allo Stato, cioè esattamente la stessa cifra, 7 miliardi, che ricorre o ricorreva in questi giorni quando si parlava dei costi che lo Stato avrebbe sostenuto se fosse passata la revoca a autostrade. Tutto il mondo e paese, la cifra magica 7 miliardi torna anche, anche se quelle sono sterline. Sterline, appunto. Sono anche di più. Esatto. Veniamo proprio alla vicenda autostrade. Consiglio dei ministri nella notte si è concluso all'alba e si conclude come? Con il mandato al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli e al ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri di trattare l'uscita dei Benetton da autostrade, progressiva, probabilmente entro la fine dell'anno, con l'ingresso dello Stato in parte e con l'obiettivo in realtà di quotare autostrade e trasformarla in una public company. Dall'altra parte, se la trattativa non andasse in porto, dice il governo, resta sul piatto la revoca. Oggi sentiamo, abbiamo sentito voci della maggioranza, abbiamo sentito la ministra, abbiamo sentito il Movimento 5 Stelle. Torniamo oggi a sentire l'opposizione, lo facciamo con Edoardo Rixi, deputato della Lega. Nel primo governo Conte era vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, tra l'altro di Genova, e di Genova nel periodo nel quale ci fu il crollo di Ponte Morandi, quindi tra i protagonisti di quel periodo. Rixi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Maria, vai tu. Rixi. Allora, intanto mi aveva colpito la dichiarazione di Salvini di ieri, che aveva annunciato se il parere legale lo giustificherà, io non sono contrario alla revoca. Era una posizione del tutto nuova rispetto a quanto la Lega aveva sempre sostenuto. Poi nella notte, come abbiamo visto, il governo ha scelto un'altra strada, la revoca rimane sullo sfondo, ma intanto si parla di un accordo che preveda una diluizione forte della presenza della famiglia Benetton nelle società autostrade. Qual è il suo giudizio sull'accordo che è stato raggiunto nella notte? Ma guardi, il giudizio si può dare solo nella misura in cui si conoscono i termini dell'accordo. È evidente che perlomeno si è deciso di intraprendere una strada, non so ancora con quanta determinazione, lo si vedrà nelle prossime settimane, perché come diceva giustamente lo spauracchio della revoca, anche se un po' più sfumato, rimane sullo sfondo, se non altro per tenere insieme una maggioranza. Vorrei ricordare che ancora nella giornata di ieri Luigi Di Maio ha tuonato parole di fuoco contro chi non voleva fare la revoca all'interno del governo, e è sorprendente alla fine che forse anche casualmente, ma non credo solo casualmente, si occuperanno delle trattative con i Benetton esclusivamente due ministri del Partito Democratico. Quindi il Movimento 5 Stelle sulla partita in qualche modo si fa da parte, e questo probabilmente consentirà di arrivare a una trattativa con i Benetton. Bisogna capire i termini, perché io vedo due problemi. Primo è che il cambio della compagine sociale di per sé non garantisce una, diciamo, una migliore sicurezza del sistema autostradale italiano, nel senso che il problema vero sono le regole concessorie, lo vado a dire da due anni, cioè dal giorno dopo del crollo del Ponte Morandi, che in Italia manca una disciplina omogenea sulle concessioni autostradali. Ogni concessione viene gestita come diciamo una concessione a sé, e quindi non ci sono né metodi, diciamo così, di controllo terzi, né sistemi in cui il gestore alla fine non diventi autoreferenziato. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema è: vorremmo capire in questa trattativa se vengono mantenute quelle opere a titolo compensativo per il territorio, anche il piano di investimento di Aspi. Faccio un esempio su tutti: la Gronda di Genova, che ha finito di avere le autorizzazioni a settembre scorso e che per vari motivi, per il contenzioso con Aspi, ad oggi non è partita nei lavori, è opera fortemente contestata dai 5 Stelle, di un valore di 4,3 miliardi sul territorio genovese. Sarà o non sarà confermata? Sì, anche se su quello mi sembra, Rixi, che lo stesso Presidente del Consiglio sia stato abbastanza chiaro. La citata tra le famose 130 opere delle quali aveva parlato a margine del decreto semplificazioni. Nel senso che le spiego, perché questa opera è interamente finanziata da capitale privato, che è quello di Aspi, e è immediatamente cantierabile, cioè è il governo che da 9 mesi sta tenendo fermi i cantieri. In realtà avremmo potuto avere gli operai dentro, tutte le autorizzazioni ambientali di qualsiasi tipo sono già state avute, quindi è completamente diversa dalle altre 129 opere. Il tema è se nelle prossime settimane, parallelamente diciamo al cambio di proprietà, sarà anche una marcia in più, e in più quello che succederà in questi giorni sulle manutenzioni autostradali, ossia il Ministero dei Trasporti riscriverà la circolare interpretativa del 1967, la norma che oggi costringe sostanzialmente dal 29 maggio scorso a smontare e rimontare le onduline nelle gallerie liquori ogni 3 mesi, cosa che ha bloccato di fatto il nodo autostradale di Genova. Lo sta bloccando anche oggi, tra l'altro. Esatto. Sappiamo che abbiamo molti ascoltatori che ci sentono anche da quelle parti e che in questo momento sono bloccati in macchina. Mi faccia fare un minimo di cronistoria, perché ieri la giornata è stata caratterizzata dalla vicenda della lettera con la quale la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli trasmetteva al Presidente del Consiglio il parere dell'Avvocatura di Stato. Parere dell'Avvocatura di Stato che diceva: guardate, la revoca è a grosso rischio dal punto di vista del contenzioso, cioè lo Stato rischia di rimetterci parecchi soldi. A dir la verità, Rixi, quando lei era vice ministro nel luglio del 2019 era già arrivato un parere legale. Certo, non era quello dell'avvocatura, ma c'era anche quello di un avvocato dello Stato che diceva esattamente la stessa cosa. Diceva: meglio rivedere la concessione invece di revocare. È cambiato qualcosa nello spirito, mi chiedo, Rixi, è cambiato qualcosa nello spirito del tempo, così si dice? È vero che ci sono dei sondaggi non resi pubblici secondo i quali per l'opinione pubblica italiana non intervenire in maniera netta sulla questione sarebbe stato, per i partiti che non avessero sostenuto una posizione netta, sarebbe stata una forte perdita di voti? Ma guardi, il tema è molto semplice. Ovviamente il giorno dopo del crollo del Ponte Morandi la situazione che c'era a livello di paese era una situazione che imponeva di prendere provvedimenti drastici. Non a caso nel decreto Genova c'è stato l'esproprio di parte della rete per consentire di ricostruire il ponte. La procura di Genova non avrebbe mai concesso ad Aspi di poter ricostruire il ponte, al di là di quello poi che si legge sui giornali. È evidente che a 2 anni di distanza questa pressione c'è di meno e probabilmente c'è anche meno la forza del Movimento 5 Stelle, che oggi è più legata a non far cadere un governo, quindi l'attenzione, che non ad, diciamo, a degli scopi più identitari, come era il discorso della revoca che aveva impugnato dall'inizio e aveva promesso sia ai familiari delle vittime sia sostanzialmente all'opinione pubblica. Ora, sulla revoca ci sono pareri discordi, devo dire, c'era un parere all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fatti da alcuni avvocati dello Stato, che diceva che c'erano i termini per poterla fare. Questo è un documento legale che mi sembra che sia stato finito di essere compilato più o meno nel giugno dell'anno scorso. C'era invece da parte dell'Avvocatura dello Stato e da parte di Palazzo Chigi un'interpretazione molto diversa, in alcuni casi anche più accurata in alcuni aspetti, dove in realtà metteva il governo di fronte a tutta una serie di criticità che si sarebbero verificate con la revoca. Una su tutte, che l'indebitamento della società nei confronti delle banche, dei fornitori, diciamo dei terzi e anche dei piccoli azionisti è tale che arriva a rasentare 20 miliardi di euro. Sì, la cifra è quella, la cifra è quella più o meno, tra banche, obbligazioni, ecco, senta, e sì, via dicendo. Rixi, naturalmente a questo punto, perché guardiamo avanti, quello che è stato, adesso a questo punto ci interessa capire che cosa succederà, sarà? Perché leggiamo che Aspi ha accettato tutte le richieste che sono venute dal governo, e a questo punto ci sarà una progressiva uscita, una riduzione, una diluizione della presenza della famiglia Benetton con l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo letto di cifre intorno al 10% cosa, di presenza. A lei cosa risulta? Ma guardi, a noi, cioè a me risulta tutto il contrario di tutto, nel senso che credo che ci sia ancora una trattativa aperta e bisogna vedere anche a che valore. Io so, meno fino a qualche giorno fa, le richieste dei Benetton rispetto alle proposte di Cassa Depositi e Prestiti erano molto distanti, cioè il governo voleva offrire sui 7 miliardi e mezzo, loro chiedevano esattamente il doppio, perché comunque ci deve essere un aumento di capitale sociale oppure una compravendita di azioni. Non è che in una società privata ci si può entrare in una maniera differente. Quindi da questo punto di vista bisogna capire poi alla fine dove cadrà l'equilibrio finanziario. Però la cosa che a me sorprende, devo dire la verità, è che si è fatta una battaglia sui Benetton sì e Benetton no, quando invece il problema che non ha funzionato sul Ponte Morandi non è stata tanto la proprietà, quando sono state le regole concessorie. Cioè, nel momento in cui il concessionario, anche controllore, è controllato di se stesso, è chiaro che si possono innescare dei meccanismi, e quando si sbaglia la scelta del management oppure alcuni manager per aumentare i profitti dell'azienda tendono a sottovalutare alcuni aspetti che possono comportare dei rischi. Ecco, questo aspetto, devo dire, non è stato minimamente trattato. Beh, si spera che le concessioni d'oro in poi siano regolate in maniera diversa. Si spera che Ponte Morandi abbia, la vicenda di Ponte Morandi abbia insegnato qualcosa su questo fronte, no? Però non se ne sta parlando, nel senso che il regime concessorio, ripeto, in Italia è B2B, con il singolo concessionario. Non c'è una disciplina omogenea sulle varie concessioni. Non c'è neanche un ente terzo che vigila. Anche la vigilanza da parte del Ministero, parliamoci chiaro, è anche molto legata alla sensibilità del singolo ministro che in quel momento presiede il dicastero. Diversamente, ad esempio, le concessioni aeroportuali, dove vediamo una presenza anche negli aeroporti di Roma importante, di Atlantia, quindi dei Benetton, e in quel caso lì le cose sono gestite in maniera differente. Ma ci sono degli enti di controllo che valutano gli interventi, valutano le manutenzioni, valutano tutta una serie di aspetti. Ecco, secondo me bisognerebbe che il governo si impegnasse di più a rivedere in maniera omogenea sul territorio nazionale proprio la disciplina concessoria autostradale. Questo è il tema vero che ha portato poi al disastro del Morandi. Cambiare la proprietà semplicemente vuol dire affidare a un soggetto piuttosto che un altro, ma il rischio... Attenzione, che poi... per il momento la proprietà dovrebbe essere così suddivisa. Entra Cassa Depositi e Prestiti, ci sarà una successiva quotazione in borsa e Autostrade viene scorporata rispetto ad Atlantia e rimane con una quota di forte minoranza. Questo scenario con Cassa Depositi e Prestiti che resta e la quotazione in borsa, con la presenza poi dei soci internazionali, EDF, Allianz e Silk Road, i cinesi. Come la vede, Rixi? Ma guardi, allora, sicuramente il tema è che CDP è un socio finanziario e non un socio industriale, per cui da questo punto di vista finanziariamente probabilmente bene e solida. Dal punto di vista industriale bisogna vedere poi chi nominerà i manager e chi detterà il piano industriale della società, perché è evidente che l'esperienza di CDP nel settore, diciamo, manutenzione strade non è in effetti, probabilmente metterà il capitale, ma lo doveva mettere anche per un altro motivo, che CDP era già aveva già fatto prestiti ad Aspi per 1.300.000.000, quindi nel caso di revoca CDP avrebbe avuto un buco di bilancio, quindi CDP gli costa di meno metterci altri 5-6 miliardi che rischiare di perdere 1.300.000.000. Sì. Cioè il problema finanziario di Cassa Depositi Prestiti è quello, però torno a dire, siccome non stiamo parlando di finanza, ma stiamo parlando poi di una società che fa cose reali e quindi sostanzialmente garantisce o meno la sicurezza delle nostre infrastrutture, il tema a mio avviso più che dal lato finanziario, dove è stato valutato probabilmente in vari aspetti, è poi sul piano industriale, cioè chi gestirà l'azienda, chi avrà la responsabilità di nominare i manager, quali saranno i controlli diversi dal passato. Vedremo Rixi come evolverà la trattativa, naturalmente. Grazie Edoardo Rixi, deputato della Lega, è stato già vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Buona giornata, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, parleremo di regole Covid, di spiagge, ma non solo di quello, perché sarà con noi anche il vice ministro all'interno Matteo Mauri, perché c'è un altro nodo che si sta sciogliendo in queste ore nella maggioranza ed è quello dei decreti sicurezza. Mattino. Parleremo tra un attimo delle regole Covid, di quanto a volte vengano violate anche sulle spiagge, come un po' di aneddotica e un po' di foto ci raccontano. E però, dato che abbiamo con noi anche Matteo Mauri, che è vice ministro dell'Interno, bentornato Mauri, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Non possiamo non chiederle dell'altro nodo che si sta sciogliendo finalmente all'interno della maggioranza e che è il tema dei decreti sicurezza, delle modifiche ai decreti sicurezza, appunto quelli firmati da Matteo Salvini, che erano uno degli elementi centrali sui quali questo stesso governo è nato, una delle ragioni politiche di questo governo. So che siete vicini ad un accordo su una bozza stilata dal ministro, dalla ministra Lamorgese, nel quale si prevede un abbassamento delle multe per le ONG, ho capito bene? Sì, si prevedono diverse cose, la riunione di ieri è stata particolarmente positiva e il ministro ha presentato una seconda bozza che recepisce anche molte delle proposte che le forze politiche hanno avanzato in queste settimane di incontri, ed è un testo molto avanzato che va esattamente nella direzione che diceva lei, perché da un lato ricostruiamo un sistema di accoglienza degno di questo nome. Con gli SPRAR, con lo SPRAR? Sì, sostanzialmente riportando dentro il sistema di accoglienza avanzato anche i richiedenti asilo, e perciò sostanzialmente ricostruendo lo SPRAR, e questo favorisce sia un'accoglienza di qualità che integrazione, che sono due cose che ovviamente vanno nella direzione degli interessi degli stranieri che sono in Italia, ma va anche nella direzione degli italiani, cioè della comunità ospitante, perché avere delle persone che sono integrate, che conoscono la lingua, che riescono a inserirsi nel sistema, credo sia interesse di tutti, ed è l'opposto di cercare il conflitto mettendo interessi contrapposti. è uno di fronte naturalmente all'altro. Mauri, ci auguriamo tutti che gli stranieri che stanno là vengano davvero formati alla lingua italiana come succede in Germania e messi in condizioni di fare le cose per cui queste comunità ricevono dei fondi, perché purtroppo la storia del passato ci ha fatto vedere di migranti ammassati senza nessuno che facesse loro formazione, anzi ci sono state, come sa bene, delle inchieste che hanno dimostrato come si lucrasse e come in quei centri di accoglienza succedesse di tutto. Abbiamo imparato la lezione, vero? Assolutamente sì, ma per farlo bisogna riportare il sistema in una dimensione umana, tra virgolette, di conseguenza garantire che l'accoglienza venga fatta per piccoli nuclei e distribuiti sul territorio, perché la scelta che fece Salvini con i decreti di portare fuori da questo sistema, per esempio, i richiedenti asilo per metterli in grandi centri con pochi servizi andava esattamente nella direzione opposta. Noi dobbiamo cambiare il meccanismo, riportarlo a come era prima, perché quello è proprio quello che ci permette di evitare le cose che diceva lei adesso. Certo. Allora, veniamo alle queste regole Covid, che caro Simone Battistoni, presidente del sindacato balneari dell'Emilia Romagna, quindi andiamo sulla riviera romagnola, buongiorno Battistoni, buongiorno. Da quel che ci viene raccontato, dalle foto che vediamo, da quello che leggiamo, da quello anche che ci dicono gli ascoltatori, non è che siano un granché rispettate sulle spiagge, assembramenti, gente che insomma non rispetta il distanziamento fisico, in alcuni casi anche ombrelloni, anche ombrelloni che non rispettano le nuove distanze che dovrebbero rispettare. Maria, prego. E mi aggiungo anch'io, così risponde a una domanda in tutto, agenti di polizia municipale che stazionano davanti agli assembramenti notturni e i ragazzini che capiscono che è un controllo per finta dicono, leggo dall'articolo di Nicola Pinna sulla Stampa, se i vigili non ci dicono nulla vuol dire che è tutto in regola, ma ancora con questa storia della mascherina. Insomma, i controlli sono finti, questo è il pezzo di Nicola Pinna dalla Stampa. Dunque, guardi, noi ovviamente facciamo del nostro meglio, io sono rappresentante degli stabilimenti balneari, le misure le rispettiamo e abbiamo igienizzatori dappertutto, igienizziamo con perossido di idrogeno o con sali quaternari, cioè noi diventiamo matti perché comunque la vita ci è cambiata ovviamente a fronte di un lavoro molto minore, però lo sapevamo, per cui va bene, ci impegniamo, facciamo del nostro meglio. È chiaro che la percezione poi del pubblico è quella che ha quando è in giro per la strada o in un parco e per noi diventa complicato reprimere più di tanto, perché noi alla fine siamo dei privati, andiamo lì, proviamo a educare, però ripeto, soprattutto i ragazzini la percezione, siamo franchi, non ce l'hanno la sera quando basta fare un giro in una piazza, non c'è. Per loro è molto difficile comprendere questo concetto. Li abbiamo tenuti in casa anch'io una figlia che però è abbastanza brava, perché solo perché la reprimo quasi con le catene, sto scherzando ovviamente, però devo dire che per loro è molto molto difficile capire questo concetto. Quindi le foto che si vedono così quasi sempre sono o di stabilimenti balneari o di locali così, molto spesso con giovani. Gli adulti sono molto più consapevoli, se ad esempio uno si siede nell'ombrello di un altro, io vado a igienizzare perché c'è molta consapevolezza, poi è secondo me esagerato, però io lo faccio perché il cliente deve essere tranquillo. Quindi questo è il punto, difficile, molto difficile tenere sotto controllo. Una pausa e poi una risposta da Mauri su questo la vogliamo, eh. 24 mattino. Allora, Mauri, siamo passati da quello che qualcuno un po', in maniera un po' esagerata, definiva uno stato di polizia, ossia il periodo del lockdown, forse ad una rilassatezza eccessiva. Le forze dell'ordine effettivamente che cosa possono fare in questo momento? Le forze dell'ordine hanno fatto tantissimo durante il lockdown, perché nel giro di 2 mesi hanno fatto 15 milioni di controlli. E durante quel periodo devo dire che i cittadini hanno risposto molto bene, perché le infrazioni sono state bassissime, molto sotto la media europea, attorno al 3% di quelli controllati. Adesso la verità è che si è abbassata la percezione del rischio, uno perché il rischio obiettivamente è minore, ma è minore perché abbiamo messo in campo quelle iniziative, c'è stato un rispetto molto profondo delle regole. C'è una percezione minore del rischio che a sua volta ci mette tutti in difficoltà, perché il fatto che non si rispettino le regole, soprattutto quelle di distanziamento personale, delle mascherine, può avere effetti molto negativi. Io sono di quelli molto cauto, cioè io penso che noi dobbiamo usare l'estate per essere molto rigorosi, portare al minimo possibile il virus, in modo che quando arriva l'autunno, e molto probabilmente aumenterà, aumenterà di poco. Se invece adesso noi siamo troppo rilassati nei comportamenti personali, rischiamo di avere una soglia ancora alta della curva di infezione e di conseguenza dopo rischiamo di pagarla molto consistentemente a ottobre. I controlli ci sono, i controlli si fanno, dopodiché non sono più i controlli dell'autocertificazione, per cui ti fermo per strada, ti controllo, è più oggettiva. Adesso è legato al distanziamento, ma il distanziamento c'è un poliziotto ogni italiano, ognuno dei 60 milioni di italiani, oppure è complicato, per cui è molto legata all'autoregolamentazione. Devo dire che tutti i commercianti, gli imprenditori, anche gli imprenditori balneari, stanno rispettando molto le regole, ma adesso dobbiamo fare un appello ai singoli, perché se poi io vado per strada, mi fermo, parlo con un amico, i ragazzi si trovano al bar, e non solamente i ragazzi, si comportano come si sarebbero comportati in un'altra occasione, in termini di controlli non c'è molto da fare. È una questione che, come dire, è legata alla responsabilità personale. Su questo l'appello però deve essere molto forte e speriamo che venga raccolto, perché altrimenti i rischi sono forti. Maria. Senta Mauri, c'è un problema anche di arrivo del contagio da fuori. Leggiamo che questa mattina c'è chi sostiene la necessità di bloccare i voli dagli Stati Uniti, e comunque già i voli dal Bangladesh sono stati bloccati. Che cosa il governo sta pensando di fare rispetto al contagio che può arrivare da fuori? Ma ieri il ministro della Salute Speranza è stato molto netto su questo. Noi abbiamo 13 paesi verso i quali e dai quali abbiamo bloccato completamente i voli, e poi abbiamo dei controlli molto stringenti anche per tutti gli altri arrivi da fuori, sia aereo che per via terrestre, su ferrovie, eccetera. Siamo quelli che hanno i controlli più alti. Non dimentichiamoci, noi siamo stati il primo paese occidentale a bloccare i voli ancora inizio dell'anno. E il ministro è stato molto chiaro dicendo che noi dobbiamo stare molto attenti agli arrivi dall'estero degli stranieri, ma anche agli arrivi dall'estero degli italiani che vanno all'estero per lavoro. Il caso dell'imprenditore addirittura dalla Serbia dimostra esattamente quello veneto, la storia di Vicenza. Vogliamo chiarire che chi arriva anche dagli Stati Uniti deve fare la quarantena, è così? E di quanti giorni? Da tutti i paesi bisogna fare la quarantena. Arriva il turista da un paese anche non ricompreso dei 13, deve fare la quarantena. Da quei 13 paesi lì non si può arrivare. Ci sono tutte le condizioni per fare i controlli. E visto che di turisti stavamo parlando, Battistoni, questa stagione com'è iniziata? Che segnali state ricevendo? Meglio di quanto non prevedeste un mese fa o più o meno siamo là, un disastro? Guardi, meglio di quello che prevedevamo ovviamente durante il lockdown, che eravamo chiaramente, non sapevamo nemmeno se avremmo potuto aprire. Quindi ringraziamo il Signore che abbiamo potuto aprire, voglio dire, e siamo qui a lavorare. È chiaro che è una stagione indubbiamente da lacrime e sangue, nel senso che la gente nel weekend in effetti c'è, forse troppa, per il discorso che diceva giustamente poco fa, che la consapevolezza è molto calata, quindi nel weekend molta. Poi noi, ripeto, conteniamo, perché abbiamo ridotto comunque del 25% i paletti, per cui una volta finiti sono finiti. Ok, però è chiaro che nel weekend molto, fra settimane veramente molto scarsa, però non ci potevamo aspettare di più, cioè è così, l'economia in questo momento è così, speriamo riparta, però io guardo l'aspetto positivo, potevamo essere chiusi, quindi va bene, manteniamo la posizione, andrà meglio l'anno prossimo. Così è, così è. Mauri, ma gli assistenti civici che fine hanno fatto? Che ne abbiamo parlato per una settimana, che dovevano essere quelli che i distanziatori sociali, quelli che giravano proprio in questi luoghi a dire attenzione, non state rispettando il metro di distanza. Ma devo dire che non mi appassionava allora la discussione, non mi appassiona anche adesso. Si vede che sono così bravi, discreti, che non si vedono. Ma esistono quindi? No, ma ci sono tante figure che in giro svolgono questa funzione, lo facevano anche prima e continuano a farlo, e continuano a farlo bene, ma poi ci sono soprattutto le forze dell'ordine che, come dire, si aggiungono agli steward, chiamiamoli così, e che cercano di dare tutte le indicazioni utili. Poi, per esempio, sulla questione delle spiagge ci sono gli stabilimenti balneari, come diceva adesso il nostro imprenditore, poi ci sono anche le spiagge libere, e di conseguenza il controllo delle spiagge libere deve essere fatto dalle forze di polizia locali oppure dalle forze dell'ordine, e anche lì è un po' più complicato. Cioè, se noi non passiamo da una forte regolamentazione dei comportamenti di ognuno di noi, diventa complicatissimo riuscire a far rispettare le distanze. Sì, è una questione che... anche infatti di coscienza personale, no? Senta, negli ultimi secondi ho una curiosità politica, ma dopo l'accordo che è stato raggiunto nella notte su autostrade, lei come la vede la navigazione del governo? Tutto rinviato al voto di autunno, al voto di settembre sulle regionali, dopodiché si faranno i conti? E a proposito di Conte, è più solido dopo questo accordo o è sempre lì che traballa? È un po' la tradizione, diciamo così, dei governi italiani, quelli di non dare grandissime garanzie di tenuta, però hanno visti tantissimi avere, diciamo, una percezione esterna di un certo tipo e poi essere in realtà molto più solidi di quanto non possa apparire. Poi è chiaro che le elezioni di settembre saranno elezioni importanti, con regioni molto importanti, e per cui avranno anche una valenza politica. Però a me sembra che sulle questioni importanti ci siano degli accordi che non erano scontati. Dobbiamo anche ricordare com'è l'origine di questo governo, e devo dire che si è trovato a gestire delle situazioni talmente complesse, e a mio modo di vedere l'ha fatto talmente bene che penso gli debba essere riconosciuto. Grazie Matteo Mauri, vice ministro agli interni del Partito Democratico. Simone Battistoni, presidente dei balneari dell'Emilia Romagna, buona giornata e ovviamente buona stagione se non ci si risente prima. Grazie mille. Carmelo Lauricella. Carmelo Lauricella in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli e i nostri autori, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Cara Maria, ci sentiamo domani 8:20. A domani, ciao a tutti. Con tutti gli altri alle 6:30, ciao.